Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Come sta? Bene. Ben trovato, buongiorno. Senta, quante braccia ha una comune stella marina? 5. C'è un santo nella storia dell'arte che è raffigurato sempre con delle pelli di cammello. Che santo è? Pelli di cammello? Pelli di cammello, San Giovanni sì. Battista. San Giovanni Battista, sì, che viveva nel deserto, quindi in un ambiente molto povero. Senta, i loro cognomi sono Baglio, Storti e Poretti. Chi sono? Aldo, Giovanni e Giacomo. Bene. La balilla, detta in sigla tecnica Fiat 508. Tre domande. Quando fu presentata al pubblico a Milano, al Salone? Quante marce aveva la prima serie? Qual era il suo consumo? Dunque, fu presentata nel 1932. La prima serie aveva 3 marce. Il consumo, mi pare, fosse 7 litri per 100 chilometri. Hai avuto paura? No, no. Questa è una summa della buona televisione. È la sintesi di quello che di solito rispondono le persone quando si fa la domanda: come vorreste la televisione, soprattutto la televisione pubblica, quella che adesso in modo particolare noi dobbiamo pagare forzatamente di nostra tasca. Dico forzatamente perché lo sappiamo tutti, è la tassa che nessuno vorrebbe pagare, ognuno rode l'anima di dover dar soldi al servizio pubblico, perché comunque non abbiamo l'idea, la percezione che in generale si debba pagare la televisione, perché siamo abituati ai più sordidi sotterfugi per scaricare, per guardare, per sgraffignare. Ma soprattutto c'è l'idea ormai generalizzata da decenni che il grande carrozzone della RAI non debba essere pagato dai cittadini perché non risponde alle loro esigenze. Questo lo diciamo però noi con la puzza sotto il naso, noi intellettuali, in intervista contestata di Angelo Guglielmi di qualche giorno fa, il patron della vera televisione, della Rai 13, ma sai, oggi la televisione è impostata sul postmoderno, cioè di non cercare niente di nuovo, ma semplicemente rifarsi a ciò che viene dal passato. Beh, infatti, sentite Fabio Fazio, che è il guru della televisione degli ultimi 30 anni circa, ripropone il Rischiatutto. Perché? Perché lui si divertiva, si esaltava da bambino guardando il Rischiatutto e rilancia Rischiatutto. La televisione ritrova una sua missione ormai perduta di centralità dell'immaginario degli italiani, di strumento culturale, di strumento di catechesi, come era nell'intenzione principale dei grandi padri fondatori democristiani della prima televisione pubblica. Oggi cerca di ritrovare questa missione riprendendo dei brandelli del passato. È come se si volesse ridare vita a un antico culto i cui dei sono ormai scomparsi, semplicemente, che ne so, dando una riverniciata agli altari, rifacendo gli stessi riti, ma non succede niente. Beh, l'ho detto prima al giornale radio, il premier Renzi di fronte a questo ha detto che vuole attivare tutti gli uffici competenti per aprire un dialogo sotto tutte le forme, quindi si faranno sondaggi, si chiameranno persone, immagino, suppongo, verranno chiamati istituti di ricerca per chiedere agli italiani cosa si aspettano dalla RAI, dal momento che se non pagano il canone rischiano anche l'arresto e quindi devono stare attenti. Questo almeno è la notizia che è uscita. Secondo appunto la nuova legge di stabilità c'è un decreto del 2000 che dice che se una persona non paga il canone entra nella sfera del codice penale, quindi rischia una condanna di carcere da 8 mesi a 4 anni. Allora, per non avere il rischio di dover stare tra 8 mesi a 4 anni in galera perché non si vuole pagare il canone, perché non si è soddisfatti dal servizio pubblico, questa mattina il pubblico di Melog, che è un campione significativo dell'Italia pensante, deve darmi l'idea di cosa vuole la televisione pubblica. Ditelo chiaramente, apertamente. Faremo un servizio alla nazione, un servizio a chi si sta attivando, agli organi competenti, il nostro che è un organo chiaramente incompetente, perlomeno nella fascia di tempo che è da me gestito, oggi cercherà di far dire agli italiani di come vogliono la RAI. 800 24 0024, tra un istante. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Melog. Cronache meridiane. Oggi è triste per me, non posso uscire perché ho fatto tardi. sono certa che tu prima o poi telefonerai. Gigliola Cinquetti, una ragazza nata per cantare. E io vi presento uno scooter nato per correre. Lambretta 150 Special, lo spider a due ruote. Più potente, più scattante, più bella. Perfetta stabilità su ogni terreno. Marce più corte per una maggiore ripresa. Carrozzeria interamente metallizzata. Sella di posto. 800 24 00 24. Sinceramente, cosa intendete voi per servizio pubblico? Cosa vi aspettate? La televisione generalista, la televisione di servizio pubblico. Voi vedrete già a casa sicuramente Netflix con 4 euro poco più, se hanno quintalate, vagonate di film un po' vecchietti, è vero, però divertenti, interessanti, andando a razzolare se ne trovano tanti, molto più belli dei film che si vedono naturalmente in prima e seconda serata nella televisione generalista, anche molte serie televisive. L'abbonamento a Sky ormai può essere dato insieme, non so, alla connessione internet di casa, con il telefonino, insomma si può avere. E poi esistono naturalmente i compulsivi dello scaricamento selvaggio, che passano le nottate oppure le giornate in ufficio a scaricarsi telefilm, serie intere, film. Ho sentito l'altro giorno a tavola di bimbi minchia che rompiano le palle a tutti quelli che stavano attorno seduti al ristorante, e dicevano a una signora: sai, io c'ho Cenerentola parte seconda, parte terza, mamma, noi non ce l'abbiamo. Altri bambini: la mamma, dai, stai buono che stasera la mamma te lo scarica, cioè non è che te lo compra, la mamma te lo scarica, cioè si attacca a qualche sistema di scaricaggio illecito e te lo scarica. Quindi è vasto il mercato dell'intrattenimento. Sono quelli che dicono: ma la televisione a me non serve più, che ci faccio? Io la sera mi stravacco sul divano, metto lo smartphone in mano, guardo le minchiate che stanno su Facebook, i filmetti, le storie, chat, e passa il tempo. Può essere anche questa la soluzione. Ma cosa vi aspettate dalla RAI come servizio pubblico? Giuseppe. Buongiorno. Veloce e conciso, visto che lei è un campione importante e sotto l'occhio del governo, cosa si aspetta dalla RAI? Niente, io mi aspetterei innanzitutto soltanto che non si sprecassero soldi come tutte le cose, diciamo, che tratta lo Stato. Vabbè, questo, quindi, vabbè, questo è in termini, diciamo, di conto economico. Ci sono delle trasmissioni, come per dire, adesso voglio nominare Agorà la mattina, ci sono dei figuranti, ma queste persone che sono sempre uguali, ma chi li paga? Sono dei poveretti che vengono. Guardi, posso dire una cosa? Ho girato e ho lavorato in quella. Sono dei poveretti che vengono lì la mattina in cambio di un cornetto, un cappuccino, una spremutina d'arancia e un gettoncino, ma di poche centinaia di spiccioli, capito? Centinaia di, parlo ancora delle vecchie lire, vengono lì e sono felici. Li razzano attraverso delle piccole aziendine che fanno del casting. Molti vengono grazie, li vanno a cercare nei centri anziani, li vanno a cercare nelle scuole. Molti sono abitué che vanno lì, si impomatano, dicono ci piace, si inciprano. Le signorine più carine sono delle aspiranti soubrette che aspireranno, ma ancora non nel modo giusto e con le persone giuste. Le mettono in prima fila, gli altri in seconda fila. Insomma, è un mestiere anche quello, bisogna avere compassione. Ma non è questo il punto. Lei come la vorrebbe l'azienda pubblica? Innanzitutto si facessero dei programmi chiaramente di informazione seria per migliorare magari l'educazione delle persone per quanto riguarda in generale non solo l'ambiente o comunque il nostro paese specialmente, che è molto... Quindi dovrebbe riappropriarsi, diciamo, della sua funzione didattica. Lei vuole una RAI che insegni, che dia la giusta regola nel comportamento. Molto chiaro. Massimo, cosa vorrebbe allora, lei? Dicevo, meno pubblicità, perché le altre TV si sostengono con la pubblicità, primo. Allora, se pago il canone sono comproprietario, quindi meno pubblicità, forse anche zero, perché a questo punto ne prendono a valanghe di soldi. Seconda cosa, trasmissioni demenziali che noi paghiamo, tipo, diciamo, i pacchi, per esempio, che allora come cultura ci dà zero, praticamente l'1, il 5, il 24, che è tutto montato, che poi noi sappiamo che è tutto montato, perché è stato più volte visto e rivisto come ipotesi scusi Massimo, se la trasmissione sui pacchi è un pacco, la trasmissione si sa, è logico, lo dichiarano nel titolo, questa trasmissione è un pacco, quindi deve saperlo che è tutto un gioco. È un gioco, però piace a molte persone, fa un sacco d'ascolto. Dobbiamo noi essere snob tanto a dire che non vogliamo queste trasmissioni? Sa, ci c'è la massaia pugliese di 70 anni, mentre gira le orecchiette e gli piace vedere i pacchi. Che vuol dire? Adesso non è per... ho dato una categoria media dell'utente medio, del pubblico Rai. Quindi per questi cos'altro vuole dargli? Cosa pensa che si guardino? Sì, National Geographic, non lo so. Ma quello che vince un milione di euro, ma chi è? Da dove arriva? Chi ce l'ha messo? Chi ce l'ha fatto andare? Perché è tutto pilotato. Ah, beh, lei, allora, scusi, rosicamente dovrebbe vincerli lei. Ma è proprio su questo che si basa. Sin dai tempi del rischia tutto, ma dei primi telequiz, si creava questa sorta di supereroi che erano il simbolo della fortuna. Tutti dovevano continuare a guardare i programmi e godere di invidiare allo stesso tempo, è come un rapporto di amore voyeuristico, della fortuna di questa persona, sperando che prima o poi loro potessero andare al suo posto. Grazie Massimo. Tra 100 euro, 500.000 euro, 172.000 euro rifiutati. Adesso comincio a sudare. Lo so. Comincio a sudare, ragazzi. Allora, ti faccio un'ultima domanda e poi ti dico se hai vinto o se hai perso. Mi dici. Tu ci credi alla magia? Quella buona, quella bella, quella che quando le cose si combinano nella vita. Questo gioco secondo te ce l'ha una magia? Siamo qui da 10 anni solo perché siamo simpatichelli? Te lo dico io, prima che risponda tu. Questo gioco ha una stranissima magia. Due cose ci salvano nella vita, ce le hai insegnate tu stasera e in tutto il periodo che sei stata qua con noi. Due cose ci salvano nella vita, amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, allora, siete invincibili! Siete invincibili! Io preferisco ridere se posso, perché se rido sono contento. Chiama di solito è sempre un po' triste, un po' currucciato, pieno di problemi, ma per la signora ultra novantenne che ha vinto i soldi, quindi ha rappresentato un momento di speranza per tutti i poverini che si guardano con sommessa titubanza la magra pensione, probabilmente è stato un momento di speranza. Vedo che si verifica la solita profezia, che ho dovuto fare all'inizio per non fare il saputello. Quando si domanda al mondo come vorreste la RAI, tutti vorrebbero i programmi di Piero Angela, una RAI più culturale, programmi culturali, ma tutte le volte che la RAI fa delle operazioni culturali che non siano quelle cose becere con Benigni che legge la Divina Commedia, perché quella è un'altra cosa, è una sorta di velleità di poter partecipare a un cenacolo culturale, si guarda qualcosa che in realtà non ha nulla di cultura in senso alto della parola, è un'operazione di mera civilizzazione se ci si riesce, ma nemmeno quello. Beh, tutti in realtà vogliono questa roba, quando in realtà poi sono le cose che guardano meno. In realtà tutti guardano il programma dei pacchi, guardano le ballerine e guardano i reality, guardano i programmi musicali, guardano musicali, per modo di dire, guardano i talent show, guardano le cose che sembrano più cialtronesche e più lontane da un modello di servizio pubblico improntato a una missione culturale. Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Ma niente, io volevo dire, se qualcuno fosse tentato dalla solita, diciamo, dal solito tormentone per cui si va in galera se non si paga il canone RAI, voglio dire che ad esempio la stessa cosa accade in Inghilterra. Ci sono, ho visto appunto alcuni siti internet, alcune informazioni che se non si paga il canone per la BBC si va sul penale. Io sinceramente pagherei anche 100 euro in più. Però lì sono abbastanza soddisfatti di quella che è la TV pubblica, mi sembra, no? Ma infatti, dunque, in Inghilterra si va sulle 200 euro, cioè paragonato all'euro si va sulle 200-210, la qualità della BBC è ottima, io pagherei 100 euro in più se avessi la qualità della BBC che fa pubblicità unicamente ai propri programmi, cioè non ci sono pubblicità esterne, non ci sono i committenti che noi insomma conosciamo, quindi si potrebbe arrivare ad una condizione del genere. In Inghilterra ci sono anche canali tipo Channel 4 che invece sono canali liberi e dove c'è la pubblicità stile Mediaset ma anche stile Rai. Quindi... Guardi, questa è una storia come il terzo segreto di Fatima, che tutti pensano di saperlo, poi tutti pensano sia qualcosa che realmente un domani potrà cambiare il corso della storia. Si sa, il servizio pubblico per metà è pagato dagli introiti pubblicitari, solo con l'introito del canone non potrebbe mantenersi quell'enorme fantomatico carrozzone che sta attorno alla RAI. Il prosciugamento dell'azienda pubblica è qualcosa che riguarda comunque chi pensa ai piani industriali. reali. Fermiamoci, facciamo finta che non sappiamo nulla di cosa ci sia dietro. Pensiamo solo alla gioia che possiamo avere davanti a un televisore, ammesso che ancora le ritualità quotidiane, le liturgie familiari permettano di trovarsi tutti assieme davanti a un televisore a guardare cosa c'è stasera. Quando non è così, non è più così. Sappiamo tutti che la sera le famiglie, ammesso che esista qualcosa che assomigli al modello tradizionale della famiglia, quello che ad Inolfi va propagandando in giro, comunque sia si tratta di 2, 3, 4 persone, ognuna con uno smartphone in mano, ognuna intenta nel digitale con i propri amici, con i propri parenti. Antonio. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, salve. Sto ascoltando. Sì, no, le dicevo... I suoi desiderati. Esprimo il mio parere e ritengo il canone forzato, chiamiamolo così, fortemente ingiusto, perché non è figlio di una scelta, ma bensì di un'imposizione e quindi... Tutte le imposizioni di questo tipo sono, secondo me, da condannare, è una tassa ingiusta. Ma ammesso che sia, non sia proprio o mangi sta minestra o salti sta finestra. Ma dalla RAI io non voglio niente. Prima, quindi lei prima niente, faccia, non si aspetta nulla. Efficienza, prima facciano efficienza e snelliscano il carrozzone e poi vengano a convincerci, ma da un'imposizione del genere non ne nasce niente di buono. Questo è il mio parere. Vabbè, snellire il carrozzone vuol dire licenziare 10.000 persone e chiudere i contratti ad altrettanti collaboratori. Capisce che è una cosa allora, non possibile. No, e allora ragionando in questo modo non potremo mai fare efficienza in Italia, perché quello che noi abbiamo in Italia allora va bene. No, io penso che prima... E allora diciamo che il canone RAI è come quelle antiche civiltà che imponevano sacrifici umani a delle deità cattive. Bisogna dare il contributo perché non si fermi l'ordine cosmico universale, come gli aztechi che squartavano le persone sulle piramidi perché non si fermasse il sole. Dobbiamo pagare il canone, sennò si ferma il grande meccanismo della storia del paese. È così? No, non funziona così. Prima facciano efficienza, poi vengano a convincerci che è una buona cosa pagare il canone, ma prima facciano efficienza, perché noi nelle nostre famiglie sono anni che facciamo efficienza. Molto chiaro. Antonio dice, spero ci sia qualcuno che si prenda appunto delle persone che dovranno sollecitare gli organi competenti a sentire il parere degli italiani. La sintesi di questa prima tranche di trasmissione è: vogliamo una RAI culturale, educativa, che sia una guida comunque nelle nostre scelte, ma che sia una RAI efficiente, e non vogliamo continuare ad alimentare qualcosa che non usa gli stessi criteri di rigore che noi usiamo ogni giorno nelle nostre famiglie. 800 24 00 24, a tra un istante. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in Digital Radio. Melog, cronache meridiane. Oh, proprio oggi nessuno si deve muovere da questa casa, che ho preparato un piatto per Lorenzo che godo solo se ci penso. Esce libero, allora con sto mestolo. E che è? E me lo sporca. Che cosa? Che cosa, è vestito? Ma è già sporco, non lo vedi? Ma non esiste un elenco dei partecipanti a questa gita? Sì, certo, c'è la Sol Maria. Mi ha assicurato che Sofia non c'è nell'elenco. Va bene, grazie Don Matteo, lei può andare. Vi aspetto fuori. Come diavolo ti è venuto in mente? Ma questo è un vestito mio? Proprio mio mio? Ma tu come ti chiami? Tiziana. E piangi? Sì. Cioè, io ti faccio piangere. Avete capito? Questa balla le mie canzoni e piange. Ma come faccio io a giudicarti? 800 24 00 24. Oggi ci siamo arrogati il privilegio di sentirsi un ufficio competente, quelli a cui il Premier Renzi ha chiesto di valutare attraverso vari mezzi, di capire cosa gli italiani vogliano dalla RAI. E devo dire che non è una grande sorpresa, sta venendo fuori quello che ormai da anni sappiamo, dagli anni in cui mi occupavo di analisi della televisione, so le stesse cose. E ho maturato rispetto agli anni fa, che ero un cinico e disprezzavo la TV popolare, che esiste una fetta d'Italia, la sto conoscendo sempre di più, che ancora ha bisogno di una televisione fatta appunto delle fiction di Don Matteo. Pensate che nei luoghi in cui girano Don Matteo ci sono i pellegrinaggi, ci vanno con i pullman, hanno fatto una forma di turismo, quasi fosse un parco a tema dove girano le fiction di Don Matteo. Quindi c'è una sorta di legame profondo, radicale, anche con il territorio che raccontano queste fiction. Esiste ancora una fetta d'Italia che ancora è tradizionalmente organizzata, che la sera cenano presto, che non sanno che fare, si siedono davanti alla televisione e si abbioccano, hanno bisogno di pensare che se non ci fosse la RAI si spegnerebbe il mondo, non hanno ancora nemmeno l'idea cosa sia una connessione internet, usano i telefoni cellulari, quelli con i numeri grossi e con l'etichetta incollata con i telefoni dei figli e dei nipoti. Per questi deve esserci qualcosa. Bisogna capire se questo qualcosa deve essere un elemento conservativo, una sorta di istituzione psicopompa, cioè che accompagna nell'aldilà il residuale pubblico della TV generalista, o deve cominciare a investire, come investirono con grande onore, cioè da dire, i democristiani, i socialisti, i comunisti degli anni 70 fino a metà degli anni 80 nella televisione pubblica, portando dentro la televisione pubblica quello che era il fiorfiore dell'inventiva nel campo del teatro, della letteratura, della scenografia, dell'immaginario. Allora la era veramente una palestra in cui si esercitava il meglio. Oggi in realtà diventa una sorta di collettore dove passa il peggio, cioè il peggio in quanto non più culturalmente innovativo, ma quanto culturalmente trito, ritrito, masticato, digerito. Patrizia, buongiorno. Sì, sono assolutamente d'accordo con lei. Allora, secondo me c'è tanta gente che vuole programmi di scarsa qualità, però sono stati stupiditi negli ultimi 20 anni dalla stessa televisione. Sì, ma sono anche stupidi di origine, nel senso si limita, gli va bene quello, cioè adesso non va dobbiamo bene, pensare... Ma facciamo allora, non so, un canale per questa gente che vuole fuffa i vari Don Matteo. Vabbè, però scusi, posso dire una cosa? Conoscono solo quello, quindi non hanno, Patrizia, diciamo, un termine di paragone... Sì, però mi fa parlare, Patrizia. Io, sì, guardi... Invecchiando ho maturato una sorta di spirito di comprensione. Io per anni sono stato antipaticissimo perché ero un critico televisivo molto cattivo, molto cinico, che non guardava in faccia nessuno e non aveva pietà per nessuno. Oggi penso che comunque ci sono persone che hanno bisogno di questo tipo di televisione, non va disprezzata, non è che noi dobbiamo dire Don Matteo, ah, che ridere, che buffonata. C'è gente che vive Don Matteo, sogna su Don Matteo, quindi è giusto che qualcuno gli faccia Don Matteo. Sì, no, d'accordo, conosco tante persone anche della mia famiglia che amano quel genere di... Sua zia, sua nonna, così... Però dico che non si può fare una televisione fatta solo di quella roba lì. Esattamente, brava, questo ecco, è giusto. Sì. Allora, io alcune proposte, per esempio, alcune richieste specifiche le ho, a parte, diciamo, tutte le questioni economiche... Faccio un esempio per capire un po' meglio. Allora, per esempio, mi ricordo una cosa molto interessante che era un palinsesto... preciso, ordinato. Mi ricordo che tanti anni fa, quando ero molto più piccola, c'era il lunedì il film western, per esempio. Si sapeva che il lunedì alle 8:30 c'era quella roba lì. Quindi, diciamo, decidere un palinsesto che è un pochino più ordinato, dove una persona sa, senza dover zappare sulla televisione o guardarselo in internet o non so dove, avere... diciamo una programmazione più ordinata. Io l'ascolto, Patrizia, però lei sta dando un modello, ahimè, molto più passatista, ancor più passatista di quelle fiction che lei disprezza. Il palinsesto ordinato sui ritmi biologici omologati in una famiglia tradizionale non esiste più. Oggi nessuno più il lunedì aspetta il film western nella TV pubblica, anche perché, ripeto, con 3-4 euro ce ne sono 3.000 di film su Netflix. Qui, e diciamo no, che più o meno Netflix, siamo lì. Guardi, l'anno scorso io l'ho avuto per 5 mesi. No, è difficile perché c'è da pochi mesi comunque in Italia. No, ho abitato negli Stati Uniti negli Stati Uniti per cinque mesi e quindi l'ho avuto. È una cosa insopportabile, perché avere troppa libertà in realtà, secondo me, ti porta a uno spaesamento. Ma sono, scusate, questi sono un po' punti di vista, come dice Alberto Sordi nel Borghese Piccolo Piccolo, la libertà è bella, peccato ce n'è troppa. Per qualcuno come lei serve un ordinatore delle idee, questo lo rispetto. Lei vuole qualcuno che pensi per lei e le dia la sorpresa. Io invece amo la deriva, la deriva totale, e a me piace vedere 10 film insieme. Che su Netflix, cioè su questi canali hai, diciamo, robe di grande qualità. Alla no, fine roba vecchia. È un po' come Skype, solamente Skype. Avevo Skype. Skype, sceglievo il film, solamente che la differenza è che decidi tu quando parte, però alla fine io l'ho tolto questo qua con la parabola, perché facevano film, dopo che ne hai visti 5 interessanti, tutto il resto non era un grande... Sì, ma sono punti di vista. Torniamo però, non voglio divagare, sennò divaghiamo. Vabbè, allora, poi per esempio mi sono appassionata tantissimo delle serie estere, per esempio ce ne sono 2 o 3 veramente molto interessanti, quindi per esempio se io fossi la Rai deciderei di programmare delle serie appunto interessanti comprate all'estero piuttosto che... ma quelle già vanno nei canali satellitari, c'è un discorso di mercato, le fanno lì, dovrebbero comprarsele, ma allora addirittura è complicata la cosa. Però vede, lei sta già virando verso un modello che non è più di quello della TV generalista, se vuole le serie americane è un altro discorso, non dovrebbe più starci in questo tipo di televisione. Se la Rai dovesse fare il servizio pubblico, dovrebbe produrre televisione come bene nazionale, come si dice il Made in Italy, come l'olio extravergine d'oliva e il parmigiano reggiano, se no a comprare le serie estere, che sono fantastiche. Vabbè, produrre, basta avere i soldi, ma produrre qualcosa di interessante, certo. Perché siamo altrimenti... d'accordo, però la devo segare adesso, perché ha parlato tanto. Patrizia ha parlato. Davide, buongiorno. Eccoci, ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Il suo punto di vista. Il mio punto di vista, intanto io nasco, 42 anni nasco io, la Rai è mamma Rai per me. Vabbè, per tanti è la mamma, sì. Le mamme a un certo punto uno le manda anche col paese, non è che la tutta la vita le pensa le mamme. No, sì. Come la famosa di Renato Zero, la canzone. Il problema è che in questi anni abbiamo peggiorato tanto, e trattasi di servizio pubblico, tutte le reti hanno una grande responsabilità secondo me, ma la Rai di più perché è un servizio pubblico, educare chi guarda la televisione e chi guarda in particolare la Rai. Purtroppo, e sono d'accordissimo, non si è dato più spazio ai giovani. Io mi domando se ci siano dei talent scout in Rai, andare a pescare questi ragazzi, perché su altri canali secondari si vedono delle nuove proposte, e spesso io, parlando con gli amici, mi trovo poi a guardare dei canali che... Però guardi, purtroppo ormai esiste una difficoltà proprio genetica, strutturale nella Rai. Io mi ricordo che tipo 15 anni fa, un direttore generale che era Pierluigi Celli fece tutta una serie di sottosocietà della Rai proprio per innovare, una si chiama Serra Creativa, io ero nel consiglio di amministrazione. Eravamo tutti entusiasti, che bello, Serra Creativa, faremo delle cose creative, ognuno aveva grandi idee. Non si fece nulla, non venne fuori nulla. Perché? Perché noi potevamo anche trovare, immaginare e aprirsi a mercati nuovi, ai giovani, innovazione. Poi questa roba doveva andare in onda nelle reti. I direttori di reti, col piffero, non cedevano nemmeno un millimetro dei loro palinsesti, quindi del loro piccolo regno in cui passavano attraverso tutti i canali tradizionali, cioè del clientelismo, degli amici, di quelli che devono lavorare per forza, di quelli che si stendono sul divano, di quelli che sono figli di qualche arciprete. Insomma, è difficile riformare il meccanismo, anche le grandi idee poi, per galleggiare hanno bisogno di spazio, e se lo spazio non c'è è un po' più difficile. Michele. Sì, ciao. Io, la mia riflessione è questa, io riflettevo sulla soggettività di questo tipo di servizio pubblico, ovvero mi chiedo che senso ha che noi ragioniamo su chiedere alle persone come impostare un servizio pubblico, che in questo caso sarebbe veramente del tutto soggettivo. E mi spiego, mentre non so, i servizi di polizia o le strade oggettivamente sono a posto quando le strade non hanno le buche, o quando la polizia mette in galera i delinquenti o fa rispettare l'ordine pubblico, le persone sono contente di destinare la propria quota delle tasse, no? a questo tipo di servizio. Ma io mi chiedo, se da questo sondaggio emergesse che la Rai sarebbe bella per le persone che la scelgono solo con Fiction, e io non mi riconoscessi in questo servizio, cosa dovrei fare? Non sarebbe corretto? Lei lo sa, qual è il suo problema, Michele? Michele, il suo problema è che è troppo intelligente per partecipare a questo tipo di sondaggio. È chiaro, di fronte a un bisogno culturale, se tale deve essere un bisogno culturale differenziato, individuale, saltimbeccante fra l'individualità delle persone, è difficile omologare. È chiaro che se si domanda agli italiani cosa vogliono, riverrà esattamente la fotografia della RAI che è quella che fa più ascolto. È logico. Questo è uno dei paradossi della democrazia. Se vogliamo fare un sondaggio democratico e chiedere agli italiani cosa vogliono, saranno molti di più gli italiani che vogliono Don Matteo rispetto a quelli che vogliono un altro tipo di televisione diversa, e quindi vinceranno loro, e quindi la RAI rimarrà sempre la stessa. L'ho detto, è difficile disarticolare questo sistema. Se chiede agli italiani che TV vogliono, TV generalista vogliono, chi guarda TV generalista vorrà questo. Vede tutte le richieste, diciamo, eterodosse rispetto allo standard RAI, sono richieste che già sono presenti in un altro tipo di televisione, che non è quella che ha un palinsesto, non è quella che ha un divano davanti, non è quella che ha un abbonato in prima fila. A tra un istante. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presento. Melog. Cronache meridiane. Prima di tutto ti sei lavati subito le mani, tesoro. Che stress, anche di giovedì, che sono stanca, morta. Ascolta, che sono arrivata stamattina alle 3, sono qua che non mi reggo in piedi. Allora, ripetiamo bene, 300 grammi di farina, 150 grammi di zucchero, una bustina di vaniglia era questa. Ah, ecco, allora posso metterle insieme? Sì, sì, beh, vai. Poi abbiamo 125 grammi di burro, un uovo intero, un rosso, un bicchierino di liquore, il cognac, e poi abbiamo un pizzico di sale e un mezza bustina di lievito per dolci. Ci ho già messo. No, non l'hai messo ancora, eccolo qua. E questa qui che ho messo qua? 800 24 00 24. Stiamo facendo la radiografia dell'abbonato in prima fila. Cosa vorrebbero gli italiani nella RAI? Ma vogliono sempre le stesse cose, quello che non c'è e non ci potrà essere mai, per un problema proprio genetico, di incompatibilità genetica, e quindi lo vadano a cercare in altri tipi di televisioni, in delle televisioni più elastiche, con minor rigidità di organizzazioni fra reti, palinsesti, spazio dell'informazione, spazio dell'intrattenimento, con delle linee invalicabili, programmi educational, i programmi di rete, i programmi di rete, i programmi di testata, il programma di struttura, la concorrenza fra le reti e la controprogrammazione tra le reti. Guardate che è un guazzabuglio dentro. Il vero problema della RAI è la RAI stessa, è l'organizzazione, è la burocrazia della RAI. È difficile sovrascrivere tutto questo meccanismo, che poi è così autodifensivo e poi soprattutto tiene in vita se stesso. Ragazzi, è come un essere alieno che voi cercate in qualche maniera di combattere sparandogli sopra, e più gli sparate più lo fate forte, perché si fa forza del vostro dissenso. È così, perché tutta la gente che lavora in RAI che fine fa? Tutto l'indotto alla RAI che fine fa? Come fate a riformare qualcosa che disperatamente cerca di sopravvivere, perché attorno a sé una folla vastissima di persone che ci stanno attorno. Sentiamo Elisabetta. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno. Allora, quello che mi aspetto è un parolone. Quello che mi piacerebbe in un'Italia ideale è il rispetto delle persone a cui si deve prendere i soldi. Voglio dire che se uno non paga va in galera, giusto? Quindi come minimo io mi aspetto il rispetto. E da questo punto di vista... Lo sa, oggi ha scritto un tweet il collega Fabrizio Roncone, dice... Ci sono persone che evadono e rubano milioni di euro. Bravo. È un poveraccio, perché non paga il canone e rischia di andare in galera, capito? Vabbè, è giusto l'Italia, giusto qui. Comunque, per tenere i piedi per terra, mi piacerebbe che ricominciassero a produrre film, fiction, programmi veri, di qualità però. Basterebbe copiare la BBC in parte. Ecco, vorrei che... si usassero questi soldi per far lavorare gli italiani e magari venderli questi programmi all'estero, se fossero fatti di qualità, invece che così, insomma, sempre qualcosa che sta a metà, e quindi li guardiamo noi e basta, lì e finisce. Potrebbe... Ma no, diciamo, tutte le fiction sui preti, sui papi, c'hanno tutto nei paesi dell'est, nel Sud America, le vendicchiano quelle cose lì, funzionano. Sì, vabbè. Sì, ok, però il nostro standard italiano è più alto di questo. Noi la fiction, i film, il cinema, la televisione l'abbiamo fatta molto bene. Potremmo in assoluto, perfino, è vero. Potremmo perfino pensare di rifarla bene. Sì, ecco. In assoluto abbiamo avuto grandi autori di teatro, premi Nobel che hanno prodotto a nostra televisione. Umberto Eco lavorava alla RAI, la buonanima, quindi, ma non soltanto lui, Paolo Poli lavorava alla RAI. In questi giorni gira un'intervista di Paolo Poli che intervista Umberto Eco, le pensi il livello, di tutto si vedeva in RAI, però non possiamo ancora fermarci su queste immaginette, santini in bianco e nero dei tempi felici della RAI. Bisognerebbe vedere chi è oggi il corrispondente nazionale di questi personaggi che ho citato e dare spazio a lui. È difficile anche trovare la materia prima, sono cambiati anche un po' i tempi. Luca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, complimenti per la sua trasmissione, l'ascolto sempre con molta gioia. Volevo dire che secondo me più che riflettere su quello che potrebbe essere un palinsesto condivisibile dalla maggioranza degli italiani, cosa come abbiamo detto molto impossibile, sarebbe da riflettere se è attuale il modo, diciamo così, che la RAI ha per far fruire i suoi servizi. Nel senso, siamo completamente fuori tempo, secondo me, sul palinsesto di 3 canali o 5 canali o 6 canali che uno sceglie l'orario del giorno in cui vedere una certa cosa. Però il modello di TV generalista, questo è un palinsesto proprio, in cui, esatto, la gente sceglie. Però probabilmente è lì l'inghippo del non essere soddisfatti della RAI. Dovremmo tenere, magari, visto che adesso da oggi pagheremo tutti, volenti o nolenti, questo servizio, dovremmo scegliere magari 3 canali da conservare, in cui magari in uno fare informazione, in uno i programmi più generalisti, in uno una cultura di base, e poi fare un servizio on demand, ovviamente anche facendo pagare un po' di più nel canone, perché magari tanti sarebbero disposti allora a pagare un po' di più nel canone, però scegliere a che orario e quando vedere una certa cosa, che possa essere sport, che possa essere documentario, che possa essere cultura, perché io mi trovo completamente impossibilitato nel vedere la RAI, perché anche qualora ci fosse un film o una cosa che mi interessa, 99 su 100 io in quell'orario non posso essere a casa, o perché le nostre vite si sono fatte frenetiche, si sono fatte colme di se ne tornare ai tempi in cui si videoregistrava. Oggi penso nessuno videoregistra, esatto, più la RAI. Non esistono neanche più i videoregistratori. Sì, io ce n'ho uno, ma non uso mai più, non so nemmeno più se posso attaccarlo, non viene più nemmeno in mente, ci me la vado a rivedere in rete qualcosa c'è. Poi Luca, buongiorno Luca. Ah, Luca, lei è Cristiano, allora, Cristiano. Ah, salve, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Niente, io ho 35 anni, ci tengo a precisarlo, volevo dare soltanto il mio parere al riguardo. Se mi si chiede cosa io vorrei dalla RAI, direi, secondo me, in due termini: autorevolezza, che è una cosa che in televisione oggigiorno scarseggia, secondo me, e libertà, nel senso dei programmi veramente più liberi. Per quanto riguarda invece la mia testimonianza, onestamente, diciamo, io in televisione, ma non a questo punto io ampliare pure, non in RAI, in televisione in generale non trovo più niente, nessun contenuto che soddisfi la mia richiesta, diciamo. Quindi, come dicevo lei, io faccio parte di quella schiera che addirittura noi nemmeno scarichiamo più, perché non c'è più senso nemmeno scaricarle le cose, perché ormai se ne trovano talmente tante. Se ne trovano talmente tante in streaming, ma addirittura io la TV, quelle cose, quei programmi che guardo in TV, perché ci sono alcuni programmi televisivi, di solito stanno su Rai 3, quelli che guardo io, li guardo nel momento in cui decido io, da internet, mai dalla TV. Nel senso, ormai la TV è diventata una specie di soprammobile. Quindi sì, è vero, questo dice una cosa molto, molto giusta. La TV è diventato un monitor un po' più grande per vedere le cose che non guardi, che non guardi nello smartphone, nel computer. Prese da un'altra sorgente, esatto, non più dall'antenna. No, lei ha detto due parole interessanti: autorevolezza e libertà. Allora, l'autorevolezza in realtà dovrebbe essere quella qualità che non è data dal fatto che sei sempre lì e sei intoccabile, come se lì da 20 anni sei autorevole perché la gente ti riconosce. Deve essere qualcosa che sei conquistato su un altro campo, non sul campo della ripetizione che ti ha dato il privilegio alla televisione. Perché anche Marzullo è autorevole, perché sono 30 anni che dice sempre le stesse cose, è un simpatico ragazzo, però è tolto dalla RAI, messo per strada, non ha nessuna voce in capitolo per poter esprimere un parere. Dico lui come rappresentazione estrema del giornalista RAI, non perché abbia qualcosa contro lui, anzi è un amico. La libertà, eh sì, è vero, il re manca ancora quel senso di leggerezza dato proprio dalla libertà. Siamo persone spaventate di dire le cose che potrebbe dire tranquillamente, più realiste del re stesso, pronte ad ogni cambiamento di aria per paura di perdere il privilegio. Questo perché? Perché è un'azienda molto, che se ne dica, sottoposta al potere politico. E quindi ogni persona che sta lì nella maggior parte perché comunque fa parte di un equilibrio, nel bene o nel male. La paura di compromettere questo equilibrio e quindi di perdere la propria possibilità di esistere toglie quella leggerezza che avrebbero altre persone. Io ho lavorato tanti anni in una radio Rai, in cui non ho avuto poi grandi problemi di libertà, ho detto quello che volevo, però lavorare adesso in questa radio a 10 anni mi dà un senso totalmente diverso, ci si rende conto, non c'è mai il capostruttura accigliato al di là del vetro, il dirigente che ti scrive, la persona preoccupata, quello che dice ma cosa dirai, è una grande libertà, certo la libertà uno deve anche sapersela poi giocare bene. Gian Santo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io la adoro, ogni volta che posso la ascolto. Parlando di televisione, io gli assi sono due, quello generazionale che oramai sta abbandonando, cioè il pubblico giovane sta abbandonando a favore dei nuovi sistemi, dei nuovi ma device. È chiaro che è un gerontocomio la RAI, questo è poco ma sicuro, questo si sa. Vabbè. Necessariamente la televisione generalista. Beh, ora, poi mica dobbiamo ammazzarli vecchi, è giusto che abbiamo... No, assolutamente, però si parla anche di fuffa quando si dice mi piacerebbero i programmi culturali impegnati. Dico tutti questi, guardi, da 30 anni che parlo di televisione. Poi ci sono i canali di RAI che hanno degli ascolti infimi, sia sul DTT che sul satellite. Sì, che li guardano 3 persone, è vero. Quindi voglio dire, se ci fosse questa grande necessità e bisogno, basterebbe alzare gli ascolti di quei canali. Ma le dico, parlare di servizio pubblico è come parlare della religione. Tutti possono dire che ci credono, tutti possono dire di averla in grande astio, ma in realtà è sempre una grande ipotesi, è sempre qualcosa legato alla propria coscienza individuale. Grazie professor Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, a domani.